Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, se qualcuno avesse avuto dubbi su come la pensassero i mercati in tema di elezioni anticipate in Italia, oggi la risposta ce l'ha secca, nel senso che come i nostri GR24 vi hanno già raccontato, i franchi tiratori hanno per ora affossato l'ipotesi di accordo per la riforma elettorale. Il mercato è cresciuto, è arrivato fino a quasi il 2%, adesso Milano guadagna l'1,30%, ma la cosa importante è che rispetto a Parigi, che è invariata, Francoforte più 0,3%, Londra meno 0,3%, Dow Jones più 0,1%, Milano ha almeno un punto percentuale in più dovuto appunto alla speculazione, o comunque all'allontanarsi, così viene letto, delle elezioni, perché si allontana per ora almeno l'accordo sulla legge elettorale. Attenzione, lo dico prima che scriviate, poi lo ripeteremo: questo non vuol dire che una elezione le debba fare o non fare sulla base dei mercati. Chi se ne frega dei mercati? È un dato di fatto che gli investitori esteri mostrano preoccupazione e nervosismo quando si parla di elezioni anticipate, ma soprattutto da quello che abbiamo detto, ascoltato in queste settimane dai vari esperti che abbiamo avuto, per il fatto che sono elezioni che potrebbero non portare, diciamo così per essere buoni, a un chiaro risultato sul fronte della governabilità. Ancora per quello che riguarda il resto dei temi, mi riferisco ai mercati finanziari, più 1,30%, Milano, ma bene, Azimut più 3,60% come banca generale, Biper Banca più 3%, 2,70 lo guadagna l'Enel, 2,60 FinecoBank, il 2,50 Unicredit e Mediolanum, il 2% Generali e anche Unipolsai, l'1,90 UbiBanca, l'1,70 Leonardo come Banco BPM, l'1,50 Snam e Buzzi Unicem, e anche Intesa San Paolo. Chi è negativo? Ferragamo perde il 4%, Fiat Chrysler meno 1,5%, Saipem meno 0,90%. Allora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, parleremo appunto anche delle ripercussioni della legge elettorale, ma dell'effetto franchi tiratori, ma in realtà ci sono altre notizie che riguardano le Venete. Sì, ne parliamo praticamente ogni giorno delle banche venete, ma insomma, che cosa è successo sulle Venete? È successa una cosa un po' strana che è difficile da raccontare. Il GIP di Milano, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, praticamente il GIP di Vicenza, che si chiama Barbara Maria Trenti, ha detto di dichiarare la sua incompetenza nei confronti dell'accusa a carico di Gianni Zonin per quello che riguarda l'ostacolo alla vigilanza della Consob, e ha trasferito la competenza su Milano. Nello stesso tempo la GIP ha deciso di procedere per l'altra fattispecie di reato contro l'ex presidente Zonin, ossia l'aggiotaggio, dividendo di fatto l'inchiesta in due tronconi. E tra l'altro uno degli effetti sarebbe quello di mettere a rischio il sequestro dei beni di Zonin, perché comunque c'è una richiesta di sequestro per complessivi 106 milioni di euro, in parte su Zonin, in parte su altri vertici della banca, tra cui l'ex direttore generale Samuele Sorato. La vicenda si è complicata perché la Procura di Milano si è rivolta alla Cassazione dicendo: ma scusate, perché deve essere nostra la competenza per un reato? E oggi la Cassazione ha accolto, o meglio, il GIP milanese Marco Del Vecchio ha accolto le richieste del PM e responsabile del PUD dei reati economico-finanziari Fabio De Pasquale di sollevare davanti alla Cassazione un conflitto di competenza territoriale Milano-Vicenza. La Cassazione dovrà quindi decidere sostanzialmente a chi tocca indagare la parte che riguarda ostacolo alla vigilanza della Consob. Tra l'altro, su questa decisione della GIP era contraria la stessa procura di Vicenza, che ha obiettato insomma molto sul fatto che la GIP dicesse io non sono competente per l'ostacolo di alla vigilanza. A questo punto sarà la Corte di Cassazione a dover decidere chi deve indagare su questo reato, se la Procura di Vicenza o la Procura di Milano. Tra l'altro, appunto, la cosa l'ha sollevata a quel punto Milano, dove il PM De Pasquale aveva ritenuto a sua volta che vi fosse un'incompetenza territoriale di Milano e ha chiesto appunto al GIP del Vecchio di inviare gli atti alla Cassazione. Comunque, sul tema delle banche venete, in cui si sta cercando faticosamente, al di là delle vicende giudiziarie, di trovare una soluzione dopo che l'Europa ha chiesto 1 miliardo di soldi ai privati, è intervenuto oggi a margine del Manufacturing Summit di Cernobbio il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Sentiamo al microfono della nostra Raffaella Calandra. C'è da aspettarselo e da augurarselo, perché è chiaro che crea tensione e ansia nei mercati. Noi dobbiamo evitare, come dire, ansietà nei mercati, che è un elemento psicologico ma poi diventa economico. È una delle cose, diciamo, che si sottovaluta nel paese. Dobbiamo recuperare fiducia, evitare ansietà e quindi evitare operazioni che determinano ansietà nei risparmiatori e negli investitori, perché questo contrae, diciamo, la capacità di investimento e di consumo, che invece dobbiamo stimolare a tutto campo. Ripartiamo dalle notizie in breve con quelle internazionali. Come sempre, oggi il petrolio è più calmo, però si è fermato a $46, cioè la botta l'ha presa ieri dopo l'aumento a sorpresa delle scorte di petrolio statunitensi. La Gran Bretagna, allora, Londra in attesa, noi seguiremo questa sera e poi domani mattina, chiaramente già dall'alba, tutte le indicazioni e poi i risultati definitivi che arriveranno. Però insomma è un testa a testa, si vota si sta votando alle 7 di mattina locali, quindi alle 8 italiane, alle 22 le nostre 23, 650 collegi nominali, da sfida, insomma i sondaggi restano a favore dei Tory e quindi della May, anche se l'ampio margine che aveva fino a due mesi fa, un mese e mezzo fa, quando ha annunciato le elezioni, si è molto molto ridotto. Per quello che riguarda l'Europa, invece, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, ha escluso nuovi tagli di tassi e ha detto che comunque il quantitative easing, quindi l'iniezione di denaro delle BCE nel mercato attraverso l'acquisizione di titoli di Stato, continuerà almeno fino a dicembre, al ritmo di 60 miliardi al mese, fino a dicembre o oltre se necessario. Tant'è che Draghi ha anche detto: non abbiamo discusso la data in cui annunciare che cosa capiterà al quantitative easing, quindi ha preso ancora tempo. E per quello che riguarda l'inflazione, ricordo che la Banca Centrale Europea ha tagliato le stime dell'inflazione, portandole all'1,5% quest'anno nell'area euro e all'1,3% l'anno prossimo, un dato importante perché, come diciamo ogni volta, la BCE ha detto che finché l'inflazione sana non sarà vicina al 2%, lui non ci pensa a modificare la politica monetaria. Ancora per quello che riguarda, invece, ci spostiamo sempre per quello che riguarda la BCE, invece ci sono le stime sulla crescita europea nel 2017, le ha viste leggermente in rialzo anche la BCE all'1,9% quest'anno e all'1,7% l'anno prossimo. Veniamo all'Italia, dicevo, al di là della legge elettorale, Moscovici oggi ha detto, non il commissario europeo agli affari economico e monetari, ha detto: risponderemo alla lettera di Piercarlo Padoan, il ministro italiano dell'economia, al momento opportuno lo faremo usando i nostri margini di apprezzamento sulla situazione macroeconomica. Per quello che riguarda la manovra, che è ancora tutta da scrivere, però oggi il ministro Calenda ha detto: l'IVA non verrà aumentata, sono il ministro dello sviluppo, ve lo dico dopo aver parlato con Gentiloni e Padoan, che sono quelli che contano veramente. L'IVA, l'ipotesi di un aumento dell'IVA è legato alle clausole di salvaguardia, se noi non troviamo 19-20 miliardi per l'anno prossimo scatta in automatico IVA e accise. Calenda su questo, però, poi ha aggiunto invece Calenda sull'ILVA, Nessun lavoratore verrà licenziato perché ne verranno presi 10.000 prima dell'accordo sindacale che potrà far crescere questo numero. Ilva, come ho già detto, nessun lavoratore verrà licenziato perché verranno presi 10.000 prima dell'accordo sindacale che potrà far crescere questo numero, gli altri rimarranno in carica all'amministrazione straordinaria anche per fare tutte le opere di bonifica che, su cui abbiamo un miliardo che deriva dalla transizione con i Riva. Per quanto riguarda l'investimento della cordata Mittal Marcegaglia, prevede 2 miliardi e 400 milioni di euro di investimenti su Taranto, un rilancio molto significativo, 1.100.000 circa, cioè c'è un poco più di 1.100.000 di investimenti ambientali, quindi mi pare veramente tanti soldi per rilanciare un asset fondamentale del paese dopo credo 6 anni di una crisi che sembrava irreversibile e che è diventata reversibile non solo grazie al lavoro fatto, 8 decreti legge eccetera, i finanziamenti, la gara, ma soprattutto al fatto che anche per la battaglia condotta dall'Italia in maniera molto forte sono stati messi finalmente dazi sull'acciaio. Preoccupato invece il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli, in occasione dell'assemblea dell'associazione, dice: il rialzo non è, ci preoccupano tutte le ipotesi di scambio tra un aumento dell'IVA e altre misure fiscali, l'aumento dell'IVA non è barattabile e se l'Italia si liberasse dei difetti strutturali potremmo sperare di avere un PIL che cresce il 2% anche nell'anno in corso. Il primo ministro Gentiloni invece oggi, intervenuto al convegno Futuro Periferie, ha chiarito che il piano per le periferie ammonta complessivamente a 4 miliardi di cui la metà sono risorse pubbliche, progetti, già 120 progetti si sono aggiudicati il bando e con circa 25-30 di questi abbiamo firmato le convenzioni a Palazzo Chigi. Il piano complessivo per gli interventi nelle periferie ammonta all'incirca 4 miliardi, di questi 4 miliardi oltre la metà sono risorse pubbliche, quasi l'altra metà sono risorse che vengono da privati, fondi immobiliari, fondazioni bancarie, imprese. In molti dei progetti che hanno vinto il bando che il governo ha promosso negli ultimi 2 o 3 anni c'è una collaborazione straordinaria tra pubblico e privato. E adesso siamo in fase attuativa. 120 progetti si sono aggiudicati il bando che appunto ha il finanziamento di circa 4 miliardi, con circa 25-30 di questi progetti abbiamo già firmato le convenzioni a Palazzo Chigi con i sindaci. Ancora due notizie in breve. All'Italia resta l'obbligo di proprietà del 51% in mani europee di una compagnia europea, quindi la soglia massima viene confermata per qualunque investitore al 49%. Queste le linee guida presentate oggi dalla Commissione europea per quello che riguarda l'Italia. Del Rio ha detto: speravo in altro, registro questo come fatto non positivo, auspicavo un'altra soluzione, però per l'Italia non credo cambierà niente. E invece un tema di cui ci occuperemo più avanti, che è una buona notizia, perché per la prima volta nella prestigiosa classifica sulla qualità delle università italiane, si chiama QS World University Rankings, sono entrate 4 italiane tra le prime 200 al mondo, e nello specifico il Politecnico di Milano, che è al 170° posto, primo tra le università italiane, l'Università di Bologna 180° posto e guadagna 20 posizioni, ma entrano per la prima volta anche la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, la normale, entrambe al 192° posto. Ai vertici restano per il sesto anno consecutivo le 4 università americane, l'Ivy League come si chiama in gergo, e quindi l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, poi Stanford, Harvard e il California Institute of Technology, che sale al quarto posto. Però insomma ne parleremo con alcuni dei diretti interessati, perché mi sembra un'ottima notizia che università italiane pubbliche, va bene anche se sono private, insomma, ma vengano messe, siano all'interno della classifica dei primi 200, sembrano tanti 200 posti. ma stiamo parlando della classifica di tutte le università al mondo. Concorrono Francia, Gran Bretagna, l'Asia, che è agguerritissima, oltre che gli Stati Uniti e parte del Sud America. Tra l'altro, questa classifica è arrivata proprio nel giorno in cui compie 18 anni, cioè diventa maggiorenne, la famosa riforma che ci chiedeva l'Europa del 3+2, quindi la laurea breve più la specializzazione, laurea triennale a cui far seguire in alcuni casi appunto il biennale specialistico, a differenza di quando l'ho fatta io, che o facevi tutti i 4, i 5, i 6 anni o se no nulla avevi. Non è però un compleanno felice, cioè noi si sperava, l'ho detto molte volte, che in questo modo ci fossero più persone che ricevessero una laurea breve, un diploma post scuola superiore, portando la media a livello europeo, perché noi eravamo sempre sotto, perché in Europa, avendo anche lauree che noi chiameremo brevi, la percentuale dei laureati italiani era sempre molto più bassa. Il problema qual è stato? E qui la critica non è, la colpa non è né dello Stato, è solo degli studenti e delle famiglie. Il problema è che invece che aumentare il numero di laureati, anche se con la laurea breve, e cioè non perdere tutti i fuori, tutti quelli che avevano fatto 10-15 esami, poi mollavano l'università e quindi risultavano come nulla, solo come diplomati, si è abbassato il livello, cioè la maggior parte degli iscritti hanno deciso di fare 3 anni invece che 5, e quindi il risultato non ha fatto è che le nuove matricole non sono aumentate, anzi ne abbiamo perse 10.000 per strada, e quindi restiamo il fanalino di coda quanto a laureati, anche considerati con la laurea breve. Peggio di noi solo la Romania. Di questo si occupano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. In questi giorni la riforma del 3+2 dell'università compie 18 anni e il raggiungimento della maggiore età purtroppo non coincide con un compleanno felice. Un dato soprattutto dimostra che quell'esperimento non è andato come doveva. A distanza di una quindicina d'anni in Italia ci sono 10.000 matricole in meno. La crisi naturalmente ha le sue responsabilità, così come l'invecchiamento della popolazione che assottiglia le pattuglie dei giovani, ma sono fattori che non bastano come scusanti. È migliorata la performance di chi si iscrive agli atenei. Se prima, quando la laurea durava 4-5 anni, solo il 15% completava il ciclo di studi, oggi quella percentuale è salita in media al 49%, ma l'età del conseguimento della laurea è sempre molto più alta che negli altri paesi europei, solo la Romania fa peggio di noi. Per le triennali infatti la laurea si consegue in media a 26,1 anni, per le magistrali a ciclo unico a 26,9 e per le lauree magistrali biennali a 27,5. Nell'anno accademico 2000-2001, l'ultimo con le vecchie regole, gli iscritti erano 285.000. Poi con l'introduzione del 3+2 c'è stato un boom iniziale con 308.000 matricole, ma ora siamo scesi a 275.000. Le rette nel frattempo sono aumentate e le borse di studio e i servizi, come le mense ad esempio, sono stati tagliati a causa delle revisioni di spesa imposte dall'austerity. È una storia triste questa della riforma universitaria, anche perché l'Italia resta il paese che ha il numero più alto di scoraggiati, cioè di giovani che non studiano e non cercano lavoro perché ormai certi di non poterlo trovare. E questo dato scandaloso sullo spreco di capitale umano dimostra purtroppo che oggi l'università e il lavoro ancora non si parlano. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, è vero che c'è ancora un problema di dialogo, come diceva Alberto Orioli, tra università e lavoro, però una cosa la voglio dire, poi passiamo alla Banca Centrale Europea. Attenzione che è inaccettabile che uno si laurei a 26 anni con la laurea breve, ok? Anche con la laurea lunga. È accettabile solo se uno è uno studente lavoratore, oppure se ha alternato formazione e lavoro, quindi anzi in quel caso è encomiabile perché fa un doppio lavoro, studia e lavora e si mantiene, oppure ha fatto periodi di lavoro e poi ha ripreso gli studi per darsi una specializzazione, in quel caso va benissimo. Ma se non c'è questa fattispecie, se non è uno studente lavoratore, se non è uno che ha alternato periodi di lavoro e periodi di studio, è inaccettabile per gli studenti, ma è inaccettabile anche per i genitori. Il periodo di studio lo fa nel tempo giusto, o se no a lavorare all'estero, non me ne frega nulla, qualunque cosa. Cioè, non è un parcheggio, perché sennò poi ecco perché saltano le medie e vedere che la media è 26 anni per una per un corso di 3 anni che a casa mia inizia a fare a 18-19 anni, che hai fatto negli altri 4? Su. E guardate che non è vero, allora dipende poi dalla laurea, ma non è vero che la laurea o il diploma o il tipo di diploma o il tipo di laurea breve non conti nel trovare lavoro. Guardate le statistiche. Certo che abbiamo fatto intere puntate sul fatto che manchino in questo paese anche gli operai specializzati, i fresatori, i tornitori, i diplomati degli studi tecnici. Abbiamo fatto recentemente una puntata su questo, ma servono anche i laureati, anche di laurea breve in alcune specialità. Mi scrive l'ascoltatore: ma chi sei per dare questi giudizi? Do un giudizio, penso che in un momento del genere metterci 7 anni per una laurea che ne prevede 3 sia inaccettabile, a meno che uno non stia lavorando o facendo un'alternanza studio-lavoro, e anche le famiglie non li tengono parcheggiati. Ci sono tanti lavori che si possono fare all'estero o in Italia. Vai. Sì, ho figli, così chiudiamo su questo. Allora, Alessandro Merli a commentare le parole di ho figlio, per essere precisi, non figli. Chiudiamo questo tema e andiamo sulla Banca Centrale Europea. Oggi, tra virgolette, in visita a Tallinn, in Estonia, tassi invariati. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera a voi. Tranquillizzante il... Adesso mi si dice, cosa dici, Barigioni? E se i genitori hanno perso il lavoro? E a maggior ragione se i genitori hanno perso il lavoro, che cavolo tengono uno a metterci 7 anni a fare una cosa che si fa in 3? A calci, fine. E basta, sempre a giustificare, ragazzi. Scusami Alessandro, torniamo a Mario Draghi, che ci ha un po' rassicurato perché ha detto che l'inflazione è più bassa del previsto e manterrà il QE a 60 miliardi al mese almeno fino a dicembre. Poi non si è neanche discusso di una data sull'annuncio del futuro. Sentiamo Draghi. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre periodiche analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano a livello attuale o più basso per un periodo prolungato e anche ben oltre l'orizzonte temporale del programma di acquisti. Riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che gli acquisti continueranno all'attuale ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine dicembre 2017, o anche oltre, se necessario. E in ogni caso, finché non vedremo un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con il nostro obiettivo di inflazione, un significativo grado di politica accomodante è ancora necessario per favorire un aumento dell'inflazione e darle un sostegno nel medio termine. Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno non in linea con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole dell'inflazione, siamo pronti a incrementare il programma di acquisti in termini di entità e o durata. Oh, allora Alessandro, no, vedo moltissima gente che si irrita per una banalità. È ovvio che se un ragazzo ha problemi di dislessia, di quant'altro, ci mette gli anni che ci deve mettere, ma non ho nessun problema a ribadire a tutti quelli che mi stanno insultando che la laurea di 3 anni, non la laurea in ingegneria, ecco, ma la laurea di 3 anni, la media l'avete ascoltata da Alberto Orioli, anche per le lauree magistrali 26 anni, quando dura 3 anni. Ma di cosa stiamo parlando? Ma vogliamo smettere di trovare sempre le scuse sul campo da gioco, l'arbitro, uno così. E poi non ho detto che i laureati servono. Se uno ci sta mettendo 6 anni a laurearsi per la laurea breve magistrale, ma devi mandarlo a fare un altro lavoro, evidentemente non c'ha voglia, non c'ha tempo, altri interessi. Io mica ho detto che devono laurearsi tutti, ma chi l'ha mai detto? Alcuni, non so, mi sembra veramente che qua sia... Alessandro, possiamo stare un po' più tranquilli quanto a quantitative easing e tassi di interesse dopo le parole di Draghi oggi? Ma diciamo che non è cambiato molto rispetto alle aspettative. Sono uscite queste nuove previsioni della BCE che ci dicono due cose. Uno, che l'economia dell'area dell'euro si sta rafforzando, quest'anno crescerà del 2%, in realtà le cifre uscite oggi erano dell'1,9%, però Draghi ricorda che proprio stamattina c'è stata una revisione per il primo trimestre dallo 0,5 al 0,6 e questo automaticamente porta le previsioni per quest'anno al 2%. L'altra cosa è che l'inflazione è in realtà più bassa di quella che ci attendeva anche solo tre mesi fa. Però lo stesso Draghi precisa, attenzione, l'inflazione qui si sta muovendo un po' in su, un po' in giù, ma è legata molto agli alti e bassi del prezzo del petrolio. In realtà sul fronte dell'inflazione, l'ha detto almeno un paio di volte Draghi, non sta succedendo niente, quindi questo diciamo che induce la BCE a mantenere invariata la sua linea. Ci sono due piccole modifiche alla comunicazione della BCE oggi, che dice, proprio perché la crescita sta andando meglio previsto, che i rischi adesso sono in equilibrio e non sono più orientati al ribasso come erano prima. L'altra cosa è che, visto che non c'è più un rischio di deflazione, la BCE non si prepara eventualmente ad abbassare ulteriormente i tassi, ma dice che li manterrà ai livelli attuali. Sì, Draghi rassicura, nel senso che appunto questa correzione di rotta, questa uscita dallo stimolo, chiamiamolo come vogliamo, della BCE avverrà in modo molto molto lento. La discussione vera e propria sarà, diciamo, da settembre in poi, su cosa fare a partire dal prossimo anno. Però c'è anche una battuta che ha detto Draghi, abbastanza interessante. Lui non ha citato l'Italia, però la domanda era sull'Italia, e lui dice: i paesi ad alto debito, a bassa crescita e in ritardo sulle riforme strutturali saranno quelli che saranno più colpiti quando i tassi di interesse saliranno. Che sembra un'ovvietà, però diciamo che ripetuta da Draghi è una cosa. No, anche perché ci stiamo un po' abituando a tassi così bassi e a titoli di Stato che vengono acquisiti dalla Banca Centrale Europea. Adesso ho un'ultima domanda per te che riguarda le prospettive economiche, ma te la faccio dopo il meteo e la pubblicità. Due precisazioni: ho detto che le lauree brevi, facili, citavo i dati di Alberto Orioli. È ovvio che la laurea di ingegneria, io a chi me lo chiede, non ci sarei neanche mai arrivato a farla, infatti non ho fatto ingegneria, è troppo difficile per me, che naturalmente sono un mezzo mona. Ho detto solo chi fa corsi di laurea di 3 anni e la media è 26 anni e non ha lavorato, non ha un lavoro, non si mantiene, cioè non ha altri motivi che giustifichino la cosa. E questa è una cosa. A tutti gli altri che mi stanno riempiendo di insulti, tutti quelli che mi stanno riempiendo di insulti, io confermo una cosa sola: quello che mi dicono gli insegnanti delle elementari, delle medie, dei licei, che in questo momento storico il problema degli insegnanti non sono più gli allievi e gli studenti come una volta che si occupavano le scuole, i problemi degli insegnanti e il motivo per cui la scuola sta diventando un Vietnam per gli insegnanti bravi sono i genitori, tra cui quelli che stanno scrivendo certe cose. Meteo e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Il numero per gli sms e WhatsApp è 349-238-6666. Poi torneremo a parlare anche di università con i casi di eccellenza. Alberto e Alessandro Melli, le prospettive sulla crescita diffuse oggi da Draghi vanno nella direzione di un leggero miglioramento anch'esse, no? Sì, c'è un ritocco alle previsioni di 1,01% per tutti e tre gli anni compresi nelle nuove stime, cioè 17, 18 e 19. In realtà per quest'anno il ritocco sarà leggermente più forte, perché si è già visto il primo trimestre, secondo i dati pubblicati questa mattina, che il trimestre va un po' meglio del previsto nelle stime preliminari e quindi si arriverà probabilmente al 2%. La BCE dice il 2% quest'anno, l'1,8% il prossimo e l'1,7% nel 2019. Quello che è incoraggiante dal punto di vista della BCE è che la ripresa si sta ampliando, come dicono loro, cioè non riguarda più solo alcuni paesi. In passato erano in particolare la Germania e la Spagna fra i grandi paesi, ma le revisioni a rialzo più consistenti hanno riguardato, almeno per quello che riguarda il primo trimestre, l'Italia e la Francia, oltre che la Grecia, quindi due dei paesi che erano sempre stati ritardatari sul fronte della crescita, quindi le cose vanno leggermente meglio. Poi però c'è l'inflazione che invece di salire verso l'obiettivo della BCE continua a scendere. Beh, però detto, nel salutarti Alessandro, ho detto in maniera un po' cinica, a noi ci fa comodo, perché finché la BCE non vede l'inflazione al 2 ha più motivi per mantenere il quantitative easing e i tassi a zero. Comunque, grazie anche Alessandro Melli. Vado subito sul traffico, perché poi vorrei collegarmi invece con Rapallo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presento Focus Economia. Sì, dico Rapallo perché si apre domani a Rapallo il 47esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, che seguiremo come ogni anno, e siamo in collegamento con il neo presidente dei giovani imprenditori, Alessio Rossi. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Adesso arriviamo anche ai temi, la New Economy Bellezza, il titolo, diciamo, della due giorni. Avrete molti ospiti anche di carattere politico, penso al presidente del Parlamento Europeo Tajani, al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, al presidente della Casaleggio Associati, quindi diciamo il think tank del 5 Stelle Davide Casaleggio, i sindaci di Milano e Roma Giuseppe Salli e Virginia Raggi, e poi vari esponenti del mondo manageriale, penso all'amministratore delegato di Microsoft Italia, all'amministratore delegato di Banca Mediolanum, e poi concluderà i lavori il presidente di Confindustria Boccia. Proprio partendo dal parterre, la notizia di oggi è che è stata affossata, almeno temporaneamente, ma affossata l'ipotesi di un accordo di riforma della legge elettorale per poi arrivare alle elezioni. La vostra posizione qual è sul voto? Che sia a rischio un voto a settembre-ottobre per la ripresa che si sta consolidando, o che cosa? No, allora, la nostra posizione è che le elezioni anticipate non sono un rischio. È ovvio che le elezioni anticipate non sono un rischio, il rischio vero è quello di passare un anno in campagna elettorale, è quello di avere una legge di bilancio che sia frutto di compromessi, che sia fondamentalmente una legge che porti solamente dei regali o dei contributi a pioggia. Questo è quello che dobbiamo evitare, quella sarebbe una sciagura. Elezioni anticipate non vediamo nessun problema, ecco, il problema è un anno di campagna elettorale che il nostro paese non si può permettere, e non si può permettere sicuramente una legge di bilancio piena di regali, ecco. Questo è quello che vediamo. Ovvio che la legge elettorale, che prima sembrava, fino a ieri sembrava raggiunta un accordo tra le principali forze politiche, ora la vediamo un po' più distante, forse i franchi tiratori di oggi hanno affossato questo accordo, ma insomma la nostra posizione è quella. Se questo governo riesce a mantenere gli impegni, a proseguire l'opera verso le riforme, il compimento delle riforme chieste dall'Europa, bene, altrimenti passare un anno in campagna elettorale non ha senso. Non ha senso anche sulle politiche economiche. Tra l'altro, della reazione di borsa abbiamo già detto, la borsa invece, così come aveva fatto perdere circa il 2% all'indice, oggi gli sta facendo guadagnare quasi il 2%, però attenzione, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, questo non vuol dire che le elezioni si facciano o non si facciano, se i mercati sono o non sono d'accordo, significa semplicemente prendere atto del timore degli investitori su una campagna elettorale dall'esito poco chiaro come esito finale. Uno può anche rispondere: chi se ne frega, non andiamo a votare, perché i mercati sono i mercati e il corpo elettorale giustamente è un'altra cosa. Veniamo ai temi del suo primo debutto come presidente, è la New Economy Bellezza, con però una grossa componente anche di politica o amministratori importanti, penso a Sala e alla Raggi. Che cosa vorrebbe che uscisse da questi due giorni, presidente Rossi? Allora, io vorrei che uscisse una visione di Europa, sicuramente, e una visione europea delle città. Una visione d'Europa ovviamente portata dal presidente Tajani, dalla Bonino, quindi che si parlasse di Stati Uniti d'Europa, di politiche comuni, di come arrivare alla banca, al sistema bancario unificato, ad un ministero delle finanze che effettivamente sia europeo, questo mi piacerebbe sentir parlare, di attrattività di capitali, di imprese europee fatte con un sistema, assolutamente al sistema delle varie città, sì, che passi anche attraverso una concorrenza tra Roma, Milano e le principali città italiane, però ecco, che ci sia un sistema Italia che lotti e combatta per attrarre capitali stranieri, imprese straniere e quindi innovazione. Da parte della politica questo ci aspettiamo. Ovviamente poi gli interventi della politica più in senso stretto, quindi penso a Berlusconi e Casaleggio, ovviamente si concentreranno, immagino, su legge elettorale e sulla loro campagna elettorale, perché poi puoi dare anche delle tracce, ma personaggi del genere poi alla fine verranno a raccontarci quello che vorranno, e essendo vicini probabilmente non a una scadenza ma a una tornata elettorale, faranno quello che è il loro mestiere e quello che gli viene meglio, quindi faranno politica e faranno la loro campagna elettorale. Dalle istituzioni, dalle amministrazioni, quindi da un Sala, dalla Raggi, cosa che ci fa piacere, perché avere la presenza del Movimento 5 Stelle è una cosa che non era mai successa, ci fa molto piacere che accettano questo confronto, che si confrontino con i giovani imprenditori di Confindustria, perché siamo i primi, diciamo, ad aver aperto un dialogo con loro. Ci aspettiamo una prospettiva, un'idea, perché comunque parliamo della prima forza politica di questo paese, stando agli ultimi sondaggi e dagli ultimi risultati elettorali, e parliamo del sindaco della più grande città italiana, della capitale d'Italia, città diciamo nella quale sono nato, nella quale vivo, nella quale lavoro. Aspettiamo una loro proposta e solamente le loro progettualità. Presidente Rossi, lei tra l'altro ha 37 anni, è imprenditore di prima generazione. Sì. È presidente dell'Imaco, che è una società di costruzioni che ha sede sia in Lazio che in Mozambico. Lo cito per questo motivo, perché vorrei, a conclusione di questa anticipazione di Rapallo, invece capire da lei che messaggio ha per i suoi associati, cioè per chi l'ha eletto, perché è giusto chiedere alla politica e complessivamente all'Europa di non restare fermi e di andare verso questi tanto decantati e auspicati politiche di coesione, sia sulle politiche fiscali che sulle politiche estere e quant'altro, però ai suoi associati lei che cosa chiederà? Allora, io ai miei associati non chiederò nulla, io ai miei associati proporrò diciamo una strada e una mia visione, che è quella che ho proposto nel programma che ha portato alla mia elezione. È vero che sono andato a candidatura unica, ma è vero che sono andato a candidatura unica perché è stato frutto di un percorso, di un progetto e di un riconoscimento probabilmente immeritato di qualche qualità che ancora sto cercando nella mia persona, però si sono affidati, quindi ora li porterò avanti in questi 3 anni, speriamo degnamente. Io quello che prospetto è un percorso di crescita degli imprenditori, di crescita delle aziende. Non a caso il convegno di Rapallo, a parte i panel, gli interventi politici, vedrà tanti interventi di imprenditori, di grandi aziende, di multinazionali e di aziende di Stato, vedi CDP e vedi o aziende tipo Borsa Italiana, che possono supportare la crescita delle aziende. Noi dobbiamo stimolare e diciamo incentivare gli imprenditori a trapassare da piccoli, medi a grandi. Il piccolo e bello non funziona più, ammesso che non si abbia mai funzionato, questo dobbiamo fare una valutazione, però non abbiamo il tempo per fare una valutazione su questo. Piccolo e bello se sei un artigiano, piccolo e bello se hai delle competenze limitate o se hai una specificità che si trova solo in un territorio. Se fai impresa, se fai industria, devi pensare a crescere e devi sperare di crescere. Quindi noi cerchiamo dei modelli che attraverso gli investimenti anche pubblici, finanziamenti anche pubblici e gli investimenti nel capitale di rischio che tante aziende fanno, permettono di crescere le aziende attraverso l'incubazione nei progetti di Borsa Italiana, penso al progetto Elite, permettono a tante piccole e medie aziende italiane di diventare grandi, di quotarsi in borsa e di crescere nei mercati. Cerchiamo di far perdere la paura che tanti imprenditori, specialmente delle vecchie generazioni, avevano di perdere il controllo magari delle loro aziende, certo, e quindi non andavano in borsa. Adesso è una strada secondo me obbligata. Abbiamo la fortuna di vedere davanti a noi un periodo in cui di soldi alle aziende ne arriveranno tantissimi, perché penso ai piani individuali di risparmio, ai PIR, certo, porteranno decine di miliardi verso le aziende, e una parte di questo andrà verso le piccole e medie aziende. È ovvio che le piccole e medie aziende che saranno strutturate e si quoteranno riceveranno la maggior parte di queste, chiaro, risorse, perché finanziare direttamente, entrare nell'equity di piccole aziende non quotate sarà più difficile, quindi sarà molto più allettante la quotazione in borsa, perché ci saranno veramente tanti capitali. E devo dire che è un passaggio culturale. E devo dire che di PIR ci siamo occupati, soprattutto Deborah Rosciani, come forma di investimento, ma torneremo a occuparcene anche noi a Focus Economia. Allora, in bocca al lupo per il suo debutto domani al neopresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi. Grazie. Bene, grazie, ringrazio io voi, vi auguro un buon lavoro e continueremo tutti ad ascoltare Radio 24. Oh, mi raccomando. Ci vediamo a Rapallo con chi verrà a Rapallo. A Rapallo con i nostri studi, con la diretta. Grazie ancora, Presidente. Benissimo, grazie a voi. Adesso andiamo su GR24 e poi la borsa, più 1,46%, festeggia, tra virgolette, mettiamola così, l'affossamento per ora della riforma della legge elettorale, e le università italiane che sono entrate per la prima volta 4 nella classifica mondiale delle migliori università, delle 200 migliori università al mondo. Così magari risponderemo anche a altri messaggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Dunque la borsa 18,9 minuti, borsa che, dicevo, oggi va meglio delle altre borse europee per via dell'effetto battuta d'arresto, chiamiamolo così, sull'accordo elettorale. Parigi infatti è invariata, Francoforte fa più 0,30, Londra meno 0,40, Dow Jones più 0,1, Milano più 1,5%. Non c'è solo questo come tema generale, però a pesare sulla borsa, come chiedo conferma Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Azimut, bene oggi il mondo bancario, risparmio gestito, Azimut più 3,90, Banca Generali più 3,80, Biper più 3,70, Fineco più 3,20, Unicredit pure, e Enel poi più 3%, Mediolanum più 2,60, Unipol 6 più 2,5, Banco BPM più 2,20, Leonardo più 2, Case New Holland Industrial più 1,80, Generali più 1,70, come Buzzi Unicem e Mediobanca. E anche Ubibanca e Ferrari. È negativo soprattutto Ferragamo, meno 3,50, e poi Fiat Chrysler, meno 1,1%. Partiamo da Ferragamo e poi commentiamo complessivamente le banche, Ubi, Biper, Unicredit. Sì, Ferragamo è arrivata a perdere nel corso della seduta anche il 4%, ormai nell'ultimo mese ha perso oltre il 20% del proprio valore. Le vendite si sono scatenate dopo che in un incontro con gli analisti G20 che si è tenuto a Parigi, l'amministratore delegato ha detto che il 2017 sarà un anno di transizione. La società, ricordiamo, non ha pubblicato i dati del primo trimestre, inizialmente si pensava che fossero esorbitanti, invece poi dopo le parole dell'amministratore delegato Poletto si è rivisto un po' il tiro, e così le principali case d'affari stanno rivedendo al ribasso le stime sull'azienda. Oggi è stata la volta di Main First, però nell'ultimo periodo più o meno tutte le case d'affari hanno rivisto al ribasso la valutazione, quindi il target di prezzo e anche il giudizio. Morale della favola, i titoli di Ferragamo, che avevano toccato un top quasi a 30 euro circa un mese fa, oggi si hanno chiuso praticamente a 24 euro. Per quanto riguarda FCA invece è stato in questo caso un report di Morgan Stanley che ha tagliato il diciamo la valutazione su FCA, pur rimanendo comunque positiva sul gruppo, alla luce del fatto che FCA sta registrando un forte rallentamento delle vendite negli Stati Uniti, il che ovviamente desta qualche preoccupazione. Peraltro ci sono stati degli switch quest'oggi da FCA a Ferrari, chi vuole rimanere investito nel settore dell'auto magari preferisce a questo punto Ferrari, che non a caso proprio oggi ha toccato nuovi massimi storici, è salita sul finale dell'1,68% e si è portata a 81,55 euro per azione. Allora, per quello che riguarda adesso arriviamo all'università, un attimo di pazienza. L'euro su dollaro, mi chiedete, leggermente più basso ma sempre a quota 1,12 per quello che riguarda il rapporto di cambio. Di Ferragamo ha già chiarito tu, e anche di Ferrari. Le borse sono un pochino nervose, sì, ma sono più che altro sono attendiste, come si dice in questi casi, soprattutto la borsa di Londra. Ripeto, i sondaggi danno ancora in vantaggio i Tory, ma con una riduzione molto forte dello scarto rispetto ai laburisti. Vedremo se saranno confermati poi dalle urne. La Gran Bretagna, proprio lei, ci è abituato che tra i sondaggi e la realtà dei fatti corre il mare. Visibilia Editore più 34%, Italian Independent più 22%, Kaleido Group più 11,20%, Clabo più 8,70%, Fronte Opposto CHL meno 10,70%, ancora la Juventus meno 10,40%, Ecosantec meno 8,5%. Grazie anche a Eleonora Micheli, a Radio Corriere del Sole 24 Ore. Adesso, al di là di tutti i messaggi di insulti, non solo di insulti, devo dire, che sono arrivati per la mia affermazione che la media con cui ci si laurea nelle lauree brevi è inaccettabile, il che non vuol dire che ci sia bisogno solo di laureati, a maggior ragione se poi sono laureati in discipline che hanno pochi sbocchi. Abbiamo detto molte volte che c'è bisogno di periti, fresatori, tornitori, gli istituti tecnici con un grosso rapporto col mondo del lavoro, ma figuratevi se facciamo discorsi così da snob, come dicono alcuni, da brioche, come dicono altri. Il problema è che poi se tu iscrivi tuo figlio all'università, tuo figlio vuole iscriversi all'università, la deve fare in un tempo ragionevole, questo abbiamo detto, compatibilmente con la difficoltà dell'università, parlavamo delle lauree brevi, anche di, insomma, delle lauree brevi più facili, e parlavamo di persone che non avessero problemi di disabilità o persone che chiaramente non stessero facendo l'alternanza scuola-lavoro o lavorassero per mantenersi, e quindi doppiamente da apprezzare. Parlavamo di tutti gli altri che comunque fanno media, e mi sono permesso di dire che la scuola, anche quella dell'obbligo, se è un Vietnam, è per colpa spesso dei genitori più che dei figli, mentre quando io sono nato nel 68, insomma, già erano più gli studenti che facevano casino e i genitori che dicevano studio. Adesso siamo arrivati al contrario, parlate con gli insegnanti. Una volta tu venivi menato, delle volte, insomma, se prendevi un brutto voto, che non è un gran metodo Montessori, saremmo stufi anche in questa radio di raccontare di insegnanti che vengono menati perché hanno dato un brutto voto ai figli, menati dai genitori perché hanno dato un brutto voto ai figli. E comunque, ripeto, le più grandi contestazioni si hanno spesso da parte dei genitori, perché nessuno vuole ammettere, va bene? Detto questo, parliamo adesso di università, perché per la prima volta ci sono 4 università italiane. Qualcuno mi scrive, sono poche, che schifo, che umiliazione. Beh, piuttosto che niente, meglio piuttosto, non c'erano prima. 4 università italiane tra le prime 200 al mondo, e sono università, sì, il Politecnico di Milano che è la prima, ma segue Bologna, Politecnico... prima delle italiane, poi c'è Bologna e poi il Politecnico è al 50, adesso vi do tutta la classifica, ma dicevo segue Bologna e poi ci sono anche la Scuola Superiore di Sant'Anna e la Scuola Normale di Pisa allo stesso posto. Centosettantesimo posto il Politecnico di Milano, e guadagna 13 posizioni. 188esima l'Università di Bologna, sale di 20 posizioni e per la prima volta entrano Scuola Normale Sant'Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore, sempre a Pisa, la normale, al 192esimo posto. Per la prima volta ne abbiamo 4. Ho capito, non sono tante, ma già è meglio di prima. E ringrazio per averci raggiunto in collegamento, da un lato, come rappresentanti non potevamo sentire tutti, il professor Giuliano Nocci, che insegna al Politecnico di Milano, nostro ospite come economista. Buonasera professore. Buonasera a lei, radioascoltatori. E grazie anche al professor Andrea Ferrara, prorettore per la didattica e l'internazionalizzazione all'Università Normale di Pisa. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Dopo il traffico, le vostre considerazioni su cosa manchi al mondo universitario per continuare a scalare questa classifica. Se volete darmi anche un commento però sull'effetto lauree brevi, oggi abbiamo scoperto che compiono 18 anni, diventano maggiorenni, ma non hanno portato a un aumento della qualità di titolo di studio, hanno fatto scendere un po' la qualità, cioè non abbiamo più matricole, ne abbiamo 10.000 in meno, mentre si sperava che con le lauree brevi si sarebbe dato un titolo di studio anche a chi faceva 10-15 esami e non arrivava alla laurea. Invece di fare di beccare più laureati per le medie anche europee, abbiamo fatto una discesa di uno scalino e abbiamo anche meno matricole. Dopo il traffico. Focus Economia. ...18:19. Allora, professor Ferrara, non voglio chiedere all'oste se il vino è buono, però come si fa a entrare, nel caso vostro, nelle prime 200, cioè restarci anche? Che cosa avete fatto? Il Politecnico, anticipo Nocci, ha tutti i corsi in lingua inglese, non conosco il caso della Normale di Pisa, ma se lei dovesse dare un consiglio a altri rettori, professori, prorettori in ascolto e poi agli studenti, qual è, come si fa a diventare competitivi a livello europeo e entrare in questa famosissima classifica? Chiaramente non c'è un solo modo per arrivare a questo risultato. Quello che noi facciamo è da sempre di privilegiare l'eccellenza, cioè noi privilegiamo l'eccellenza sia nei docenti ma anche nei ragazzi che prendiamo, e soprattutto il merito ovviamente. Voi sapete che alla Scuola Normale si entra unicamente per merito e non per nessun altro motivo, quindi questo è uno dei motivi su cui noi facciamo leva. Mi scusi, ma questo vuol dire però fare una selezione anche di carattere di censo, di costi, o avete borse di studio? Voglio dire, io possa avere una grande capacità come merito, avere una famiglia che ha poche disponibilità economiche e poi costa studiare a Pisa, costa studiare fuori sede. Allora, le do una buona notizia su questo, per chiunque entri alla Scuola Normale, che ovviamente non è una cosa semplice, perché noi ammettiamo circa 50 ragazzi tra quella che noi chiamiamo la classe di scienze e la classe di lettere, quindi chi studia facoltà scientifiche e facoltà letterarie, vengono totalmente spesati, non spendono una sola lira, gli viene dato sia il vitto, alloggio e anche l'iscrizione all'università, è totalmente gratuita, quindi in questo senso non facciamo alcuna distinzione di censo. Dovranno presentare la dichiarazione dei redditi, immagino, ci sarà l'ISE, no? No. Sono degli studenti, no. Loro non c'entra, questo non l'ho capito. Assolutamente niente. No, c'è un esame di ammissione, quindi appunto noi ammettiamo circa 50 studenti l'anno su 1200 richieste che riceviamo. Questi fortunati 50 persone, indipendentemente dal loro censo familiare, dalla loro origine, vengono trattati nello stesso modo. Quindi senta, non guardiamo proprio... Ferrara, le lezioni le fate in italiano, in inglese? Per i corsi di PhD sono in inglese. Quello è chiaro, ma invece la laurea, diciamo la prima fase della laurea? Per la fase della laurea quelle scientifiche sono fatte in inglese, quelle letterarie per la loro stessa natura, perché molte persone, soprattutto da noi, molti studenti stranieri vengono a studiare il Rinascimento, vengono a studiare Dante, non avrebbe senso insegnare No, inglese. Questo ci arrivo anch'io nella mia somma. Ignoranza. No, è chiaro, insomma, un inglese che viene a studiare il Rinascimento glielo fai studiare magari in italiano. Certamente. È un po'. Allora, professor Nocci, voi invece siete diventati famosi perché il Politecnico, che è più grosso, molto più grande, diciamo, di Sant'Anna e anche della normale, avete obbligato tutti gli insegnanti a fare lezioni in inglese, ci siamo occupati di voi, un paio avevano protestato, per fortuna non dico che le abbiate soppresse, ci mancherebbe, ma insomma avete ovviato al tema. Anche per la stessa domanda, se lei avesse qualche suo collega o rettore o professore in ascolto, insomma, come si fa? So che non c'è la bacchetta magica, ma su cosa puntare? Beh, in primo luogo si parlava prima di eccellenza. Un primo elemento è la qualità, non solo eccellenza in entrata, eccellenza nella didattica, che vuol dire grande vicinanza con il sistema delle imprese. Uno degli elementi che qualifica il Politecnico di Milano è la possibilità di lavorare in progetti di ricerca avanzata con il sistema delle imprese che producono conoscenza per il nostro corpo docente che viene trasferita ai nostri studenti. Non è un caso che in ambito di questa graduatoria generale il Politecnico sia 173esimo a livello come posizionamento complessivo, ma sia 53esimo al mondo per quanto riguarda la sua reputazione da parte della qualità degli studenti in uscita valutata dal sistema delle imprese. Ecco, ha ragione e voglio darla, perché invece la classifica, guardando le opinioni dei datori di lavoro, cioè di chi dà lavoro poi a sti ragazzi, vede la Bocconi al 30esimo posto su 200 e il Politecnico al 53esimo, per cui insomma... E tra l'altro questo cambia anche un po' la classifica, per esempio se uno va a vedere invece le opinioni di 75.000 accademici di tutto il mondo, cioè professori che giudicano i professori, Bologna è comunque messa bene al 77esimo posto e la Sapienza a Roma è all'86esimo posto. Anche qui però, Noci, quanto è selettiva su criteri di censo e quindi su criteri che non vorremmo vedere il Politecnico? No, perché qualcuno mi scrive in questo momento, beh, dopo, con quello che costa, se non sono di Milano, dopo quanti anni... arrivo a break even, cioè mi ripago degli spese che ho fatto, che la mia famiglia, per meglio dire, spesso ha fatto? Ecco, dobbiamo essere molto chiari. Allora, l'università in Italia costa pochissimo. Il Politecnico di Milano, come in tutte le università italiane, non viene fatta distinzione di censo. Abbiamo il diritto allo studio e quindi tutti in base alla dichiarazione dei redditi, come diceva lei, c'è un livello di tassa universitaria che va dai, se non sbaglio, da circa 500 euro ai 3.000 euro. Però questo è un elemento che voglio portare all'attenzione dei nostri radioascoltatori. Noi in Italia, nelle scuole e nelle università pubbliche, si pagano queste rette, queste tasse universitarie. Nel Regno Unito si pagano 30.000 sterline all'anno, negli Stati Uniti le università si paga 60-70.000 euro dollari all'anno, tant'è che si dice che c'è una delle grandi bolle negli Stati Uniti è il debitamento che gli studenti fanno per iscriversi. Allora, questo è un tema che a me preme evidenziare all'attenzione dei radioascoltatori. Perché? Perché se il sistema italiano, perché solo quattro università? Perché il sistema italiano ha una, come dire, rispetto agli altri competitor che hanno in media tasse universitarie molto più elevate, ha un problema, che è esattamente il tema delle fonti di finanziamento in ingresso. Non sfugge ai radioascoltatori che il livello di finanziamento pubblico che l'Italia attribuisce al sistema dell'università è molto, purtroppo in questo momento, in continuo calo ed è basso. Intanto, per dare un'idea, le università italiane sono fortemente penalizzate in queste graduatorie per il rapporto docenti-studenti, cioè per il fatto che un docente ha molti studenti. Noi al Politecnico abbiamo un rapporto che adesso diciamo 1 a 150, non esattamente così. Un nostro concorrente diretto, che è l'ETH di Zurigo, ha un rapporto 1 a 20. Perché questo è possibile? Perché ci sono dei finanziamenti specifici da un lato da parte del sistema paese che destina risorse ben superiori all'università, perché un'economia che cresce deve investire sul proprio capitale umano, e dall'altro lato perché, come dire, vi sono anche... Sì, guardi, qui andremo, io sono in chiusura del programma, non ci andremo troppo in là, perché io invece vedo anche dei pro ad avere un'università più accessibile rispetto ai modelli anglosassoni americani. Quello che a me non è mai piaciuto, personalmente, in questo sono d'accordo con Oscar Giannino, è il valore legale del titolo di studio, nel senso che se vogliamo mettere in concorrenza l'università, non si può dire che la stessa laurea è uguale in tutto il regno, ma che sappiamo benissimo che questo non mette in concorrenza l'università quando fai i concorsi pubblici. Ma andremo un po' fuori tema, ho un minuto scarso per chiedere a Ferrara e anche a Noci invece sul tema della triennale, al di là delle polemiche degli ascoltatori, del ruolo dei genitori, dell'università usata come parcheggio, è stato un fallimento quello complessivo nostro, della società, non aver intercettato più matricole e invece aver abbassato il tempo di studio? Ferrara e poi Nucci. Ma diciamo che ci sono dei lati positivi, che sono sicuramente il fatto che ora gli studenti terminano i loro studi presto, e questo è un vantaggio che rispetto anche appunto alla competizione internazionale rende le cose più semplici. Questo sicuramente è un aspetto che è stato curato. Che poi ci sia stata una frammentazione dei corsi e quindi anche del sapere è evidente, ma forse questo anche è corrisposto a una necessità che è andata sviluppandosi nel corso degli anni, e quindi tutto sommato io non penso che l'esperimento sia del tutto negativo, anche se ovviamente è tutto migliorabile. Allora, Noce, a parte che molti le contestano le cifre, dicono che ingegneria minimo 5.000 euro, poi sommano giustamente Verona, medicina 4.000 euro all'anno, più l'appartamento, più il treno, gli autobus, i libri. Noce, anche per lei è stato un parziale, almeno fallimento, quello della laurea breve rispetto agli obiettivi di far alzare la qualità dei diplomi, diciamo, degli studi? Non è stato un fallimento, nel senso che guardando le prestazioni del Politecnico di Milano, il numero di studenti fuori corso si è drammaticamente ridotto, abbassando quindi quello che è il costo per il sistema. Quindi ci sono molti più studenti che si laureano nei tempi dovuti e la qualità della didattica è migliorata. Se posso dire, sì. Vi è un tema sulle lauree triennali in senso stretto, se il vero tema è che le famiglie italiane non hanno capito le lauree triennali. Quindi quello che noi abbiamo registrato, volevamo produrre moltissimi laureati triennali che andassero direttamente nel mondo del lavoro e non fare gli ingegneri di 5 anni, le famiglie hanno ritenuto che la laurea triennale fosse una laurea di serie B, quindi hanno scelto e hanno indotto anche i loro figli a fare anche la laurea fino al 5° anno. E questo anche è un altro aspetto, ed è vero, grazie ad ambedue, grazie quindi al professor Giuliano Noci del Politecnico, grazie al professor Andrea Ferrara, prorettore della Normale di Pisa. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani alle 17 con la poco invidiabile classifica. Intanto, da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.